Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla quinta puntata del Pinsimonio. Il tema di oggi è l'eccesso e le parole che oggi andiamo a riscoprire sono profondere, prodigare, sperperare, scialacquare e dilapidare. Profondere è inteso come il versare o lo spargere in abbondanza, consumare donando o spendendo con prodigalità spesso eccessiva, profondere denari, capitali, ricchezze. Anche con uso sostantivato, la sua vita fu un continuo profondere ai poveri, citazione di Manzoni. In senso figurato, profondere lodi, complimenti, auguri. Nella forma riflessiva, dire o fare qualcosa con abbondanza di parole, con calore, con effusione, profondersi in ringraziamenti o in scuse. Da qui il participio passato profuso, che è frequente come aggettivo. Prodigare invece viene definito come lo spendere o donare con molta larghezza o senza misura, ha prodigato tutte le sue ricchezze ai poveri, in senso esteso o figurato e più comune, distribuire, dispensare, dare con liberalità, con riferimento a cose diverse dal denaro, prodigare lodi o prodigare sorrisi. Frequentemente come riflessivo non risparmiarsi o profondersi, in particolare con un complemento di scopo viene definito come il darsi interamente, il dedicare tutte le proprie energie a una persona, a un ideale o a un fine determinato. I medici si sono prodigati per salvare i feriti. Continuiamo con sperperare, che intende il spendere senza criterio, il scialacquare il denaro, dilapidare le sostanze proprie o altrui. In pochi anni ha sperperato tutto il suo patrimonio. In senso figurato, consumare inutilmente, impiegare senza un risultato adeguato, sperperare acqua, sperperare le proprie forze. In senso antico letterale, rovinare o disperdere. In questo mezzo gli Accatti e Balzelli sperperavano l'Italia. Il participio passato è sperperato e in senso antico e letterale intendeva anche l'essere disperso o sparso, sparpagliato. Sperperate le sementi nel campo. Indi scialacquare, simile a sperperare, indica lo spendere con eccessiva larghezza e prodigalità, sperperare, dilapidare, scialacquare il patrimonio di famiglia, in senso figurato e letterale, prodigare o profondere. Terminiamo con dilapidare, che deriva dal latino e propriamente significava gettar qua e là come pietre. Intende sempre il disperdere, lo sperperare le sostanze proprie o di altri. Ha dilapidato in pochi anni tutto il suo patrimonio. Include in sé però l'idea di un cattivo uso del denaro e talvolta quasi di una violenza distruttiva. Dilapidare i risparmi al gioco. E dopo aver scialacquato e sperperato parole riguardo questi termini che sono ovviamente sinonimi, ma poco usati correntemente, vi saluto e vi aspetto lunedì sempre su Radio Città Fujiko. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko dal lunedì al venerdì dopo la rassegna stampa di Radio Zanardi, oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. A lunedì. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.